Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque. Tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista: lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta: la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto: mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè questa povera figlia, evidentemente, è un OGM, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio. Beh, è sicuramente impareggiabile, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il presidente della regione Campania De Luca, oggi nella sua conferenza stampa solita del venerdì, ha attaccato chi lo attacca perché ha deciso di chiudere per primo, come prima regione in Italia, le scuole, anche se adesso varie regioni man mano lo stanno seguendo, l'ultima poco fa le Marche, che ha deciso per la didattica a distanza al 100%. Insomma, sapete che naturalmente non la manda a dire De Luca, che tra l'altro chiede un lockdown nazionale da diverso tempo, dice che il governo perde tempo. In effetti oggi il direttore del prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha detto che non ci sono buone notizie, infatti ci sono più di 31.000 nuovi contagi oggi nelle ultime 24 ore. Ne parleremo, così come parleremo della situazione per esempio della Val d'Aosta, che è considerata la regione più contagiata, ne parleremo col sindaco d'Aosta, questo appunto per quanto riguarda i parametri principali, che sono i decessi, terapie intensive, eccetera. Dopodiché buone notizie almeno per quanto riguarda l'economia, che ha avuto un rimbalzo, come si dice, più considerevole del previsto. Tanti temi da approfondire come sempre. Per i vostri commenti sulle notizie principali, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete scrivere i vostri commenti al numero per i WhatsApp 349-238-6666. Lasciate le cinture che si parte. L'evoluzione dell'epidemia in Italia: superati i 31.000 casi in un giorno, le vittime sono 199. L'Istituto Superiore di Sanità parla di rapido peggioramento nazionale, con 4 regioni più Bolzano ormai nello scenario 4, cioè il più grave. Governo e regioni: il ministro Boccia sottolinea le misure più restrittive dei governatori hanno il via libera del governo, e la Val d'Aosta, la regione con la più alta percentuale di contagi, fa scattare il coprifuoco dalle 21 alle 5. Buone notizie per l'economia italiana: cresce del 16% nel terzo trimestre e rimbalza oltre le attese, e nell'incontro governo-sindacati raggiunta l'intesa per il blocco dei licenziamenti sino a marzo. Violento sisma nella Turchia occidentale, edifici crollati nella città di Smirne e nella greca Samos. Stati Uniti, a 4 giorni dalle elezioni presidenziali, Trump dice dovrebbero finire il 3 novembre senza estensione. Il presidente cancella intanto la festa prevista per la notte elettorale nell'hotel col suo nome. Partiamo quindi dai dati aggiornati del coronavirus in Italia. Aumentano ancora i contagi, per la prima volta superano la soglia dei 30.000 casi in un giorno. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 31.084 i nuovi casi, comprese vittime e guariti, mentre l'incremento delle vittime è di 199 in 24 ore, che portano il totale a 38.321. Nuovo record comunque di tamponi effettuati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono stati 215.085 i test, circa 13.600 più di ieri. L'epidemia è però in rapido peggioramento, con l'indice RT a 1,7. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che definisce a rischio elevato 11 regioni, mentre ce ne sono 4, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, più la provincia di Bolzano, che sono già nello scenario 4. L'epidemia è in rapido peggioramento in tutta Italia, scrive il report settimanale del Ministero della Salute, con sempre maggiore difficoltà a tracciare i contatti e strutture sanitarie in sofferenza, con ospedali spesso già oltre la soglia critica di pazienti Covid. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Il quadro che emerge è di peggioramento rispetto alla settimana precedente. A livello nazionale è uno scenario compatibile col tipo di scenario 3, o 3 in evoluzione, verso un tipo di scenario 4. Scenario 4 significa trasmissione del virus fuori controllo e criticità diffusa del sistema sanitario. L'indice RT, che segnala la velocità di trasmissione, critico sopra 1, è a livello nazionale a 1,7, sopra 2 in Lombardia e Piemonte, vicino a 2 a Bolzano e in Val d'Aosta. In generale sono classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata della malattia 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val d'Aosta, Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana. E Brusaferro ha invitato le regioni più a rischio a intervenire subito con nuove, decise restrizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dal rapporto settimanale dell'ISS emerge, per quanto riguarda la scuola, che la percentuale di contagio nell'ambito scolastico rappresenta il 3,8% del totale di tutti i contagi. Governo e Regioni, il ministro per gli affari regionali Boccia sottolinea le misure più restrittive dei governatori hanno il via libera del governo e la Val d'Aosta, la regione con la più alta percentuale di contagi, fa scattare da domani il coprifuoco dalle 21 alle 5. Per parlarne sarà ospite tra poco qui a Effetto Notte il sindaco di Aosta. Passiamo all'economia italiana. Durante i 3 mesi estivi il PIL, il prodotto interno lordo, è cresciuto oltre le attese, rimbalzando a più 16,1%, un dato che secondo il ministro dell'economia Gualtieri conferma le stime del governo per il 2020. Confindustria mette in guardia: a settembre primo stop della produzione industriale dopo 4 mesi di robusta crescita. Vola il PIL nel terzo trimestre e mette a segno una crescita del 16,1% contro il meno 13 dei 3 mesi precedenti, un risultato superiore alle attese. A misurare l'andamento dell'economia è l'Istat, segnalando che su base annua il PIL ha registrato una contrazione del 4,9%. Se ci dovesse essere un nuovo lockdown, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, la ripresa sarà solo rinviata, non pregiudicata, e conferma il meno 9% del PIL nel 2020 stimato dal governo. L'entità dell'aumento del PIL nel terzo trimestre è tale che la previsione annuale pubblicata nella NADEF resterà valida anche nell'eventualità che nel quarto trimestre si verifichi una flessione dell'attività economica dovuta alle misure restrittive annunciate domenica scorsa dal governo e all'impatto sui consumi della diffusione della pandemia. Confindustria intanto mette in guardia: difficile vedere segnali di ripresa breve, stima il centro studi, spiegando che la produzione industriale ha registrato il primo stop a settembre con meno 3,2% dopo 4 mesi di crescita robusta e si stabilizza in ottobre a più 0,4%, ma le prospettive, sottolinea il centro studi, sono tornate negative. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nell'incontro oggi tra governo e sindacati è stata raggiunta l'intesa per il blocco dei licenziamenti sino a marzo, e anche questi saranno tra poco temi di approfondimento, quelli relativi all'economia italiana. Le posizioni dei paesi europei sulla quarantena per il Covid sono molto divergenti, ma un approccio congiunto è l'unica via da seguire per conquistare la fiducia dei cittadini. Questo l'ha detto la commissaria europea alla salute ai ministri della salute riuniti in teleconferenza, invitandoli a dare alle misure di isolamento maggiore coerenza e prevedibilità per conquistare la fiducia dei cittadini. E intanto, per quanto riguarda i casi nel mondo, il bilancio dei casi di coronavirus ha superato quota 45 milioni, un milione in più in soli 2 giorni. I morti sono 1.181.075, nuovi record di contagi negli Stati Uniti e in Germania. Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ha invitato alla prudenza i cittadini francesi che vivono all'estero all'indomani dell'attentato terribile di ieri di Nizza, affermando che la minaccia contro gli interessi francesi è ovunque. E nel frattempo un gruppo tunisino ha rivendicato l'attentato di ieri. Un gruppo tunisino ha rivendicato l'attacco alla chiesa di Notre Dame a Nizza, ha fermato un sospetto, il killer. Intanto Brahim Ouessoui è stato riconosciuto dalla famiglia prima di raggiungere la Francia, ha passato 15 giorni a Palermo, ospite da un parente. Continua a gravarsi in Turchia il bilancio del terremoto nell'Egeo. Le vittime accertate nella provincia occidentale di Smirne sono salite a 12, mentre i feriti sono almeno 419, secondo le autorità locali. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di 17 edifici crollati a oltre 5 ore dal sisma. Passiamo agli Stati Uniti. A 4 giorni dalle presidenziali, festa cancellata per una vittoria certa, Donald Trump resterà però alla Casa Bianca. Donald Trump ha cancellato la festa della notte elettorale organizzata per celebrare una vittoria su Joe Biden, della quale è certo, nonostante i sondaggi suggeriscano altrimenti. Doveva essere nel suo grande albergo di Washington, il Trump International Hotel, invece il presidente rimarrà alla Casa Bianca. Aveva già spedito inviti per un evento definito in lettere cubitali epico. La scelta riflette, sembra, preoccupazioni pragmatiche. L'albergo, aperto nel 2016 in concomitanza con il suo ingresso alla Casa Bianca, alla quale è vicinissimo, è diventato un simbolo dei conflitti di interesse e un party violerebbe norme della capitale su assembramenti al chiuso limitati a 50 persone a causa del coronavirus. I democratici si augurano che la cancellazione sia in realtà foriera ad un'uscita di scena del presidente, ma Trump non si dà affatto per vinto. Attraversa a ritmo frenetico il paese organizzando comizi di massa, soprattutto nel Midwest industriale rurale, che potrebbe risultare decisivo. Nel giro di poche ore, ecco Wisconsin, Michigan e Minnesota, Biden contrattacca a colpi di eventi più piccoli promuovendo le precauzioni contro il virus in Minnesota, Wisconsin e Iowa. E per sabato ecco i primi comizi assieme a Barack Obama in Michigan, a Detroit e Flint. Unica certezza per ora è la forte partecipazione al voto. In Texas sono già arrivate 9 milioni di schede anticipate, superando il totale complessivo di chi aveva votato nel 2016. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E dai Stati Uniti alla Polonia, dove centinaia di migliaia di persone giunte nella capitale polacca hanno preso parte alla marcia su Varsavia indetta dal movimento femminile, lo sciopero delle donne in difesa del diritto d'aborto vietato dal governo polacco anche nel caso di gravi malformazioni del feto. Per chiudere lo sport, con i 60 anni di sregolatezze e tanto genio calcistico di Diego Armando Maradona. C'è una consolazione a questo mondo, anche il Padre Eterno invecchia. Anzi, Dio, il Dio del calcio, Diego Armando Maradona, l'uomo che con una palla può fare qualsiasi cosa. Una palla, gli bastava una pallina da tennis, tic-tac, tic-tac, e andava avanti a palleggiare per delle ore. Che mito Maradona! Compie 60 anni e ti accorgi come sia passato in fretta quel calcio degli anni 80, quando noi ragazzi giovani cronisti si andava a seguire il Milan di Van Basten, l'Inter di Rummenigge, l'Udinese di Zico. Era un altro mondo, un altro calcio, già veloce ma romantico, e di quel calcio Diego Armando Maradona era il suo profeta, un dio imperfetto perché nella sua immensità si è potuto permettere strapazzi, e con questo avete capito tutto, che nessuno al mondo avrebbe potuto reggere. Ora Diego è un po' così, dimagrito dopo tanta ciccia, ma anche zoppicante per una caviglia malconcia. Anche lui, il nostro Padre Eterno, ha paura del virus e sta rintanato in casa ad allenare in smart working. Che tempi! Per i miei 60 anni vorrei riunire tutti i miei figli, ha detto Diego. Beh, se ci riuscisse con tutti i figli che ha sparso per il mondo, sarebbe il suo ultimo miracolo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso, a parte i miracoli, stiamo invece sulle cose concrete. Aggiorniamo chi sta viaggiando per i vostri commenti. Sempre pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Vedo che molti stanno commentando le dichiarazioni del presidente della regione Campania De Luca. Qualcuno dice, per esempio, vediamo questo messaggio, se lo riprendo. Parla di ragionamento allucinante fatto, dice, da un presidente di regione, dice non è accettabile. E un altro invece ascoltatore scrive: De Luca, governatore che ha preso la maggioranza di voti alle recenti elezioni regionali, complimenti, se lo dovranno tenere alle prossime elezioni, cioè, ricordatevi dei fatti degli eletti. In questo senso, dice Vito. Vabbè, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E anche in questa ultima puntata della settimana, 60 minuti ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata vi ho appena raccontato, e adesso invece alcuni temi da approfondire insieme agli ospiti. Allora iniziamo da qui. Oggi non ci sono buone notizie, perché i casi ieri erano quelli, diciamo, i tamponi positivi, ieri erano 26.831, oggi abbiamo superato abbondantemente i 30.000, siamo a 31.084. E ha dato i numeri, inevitabilmente, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, appunto quelli che di cui vi ho dato conto all'inizio della puntata, cioè oggi abbiamo superato i 31.000 nuovi contagi, ha detto Rezza, infatti oggi non ci sono buone notizie. E l'Istituto Superiore di Sanità ha lanciato a sua volta l'allarme, ha detto in Italia l'epidemia è in rapido peggioramento con l'indice RT, cioè l'indice di contagiosità a 1,7, addirittura in due regioni, se non si è abbassato nelle ultime ore, Piemonte e Lombardia sarebbe a 2. Poi sarebbero a rischio, sempre secondo l'Istituto Superiore di Sanità, rischio alto 11 regioni in Italia, mentre ce ne sono 4, la Campania, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, più la provincia di Bolzano, che sono già nello scenario cosiddetto 4, no? In questi giorni gira questa espressione scenario 4, cioè quello scenario in cui i servizi sanitari sono a rischio di tenuta nel breve periodo. Quindi la situazione è complessivamente, ha detto l'Istituto Superiore di Sanità, molto grave sul territorio nazionale, con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose regioni. Il governo non esclude il lockdown, ha continuato ad allontanarla questa idea nelle settimane scorse, però questi dati e anche l'allarme, insomma, degli esperti spingerebbero in questa direzione. Per esempio il presidente della regione Campania De Luca, che dice il governo sta perdendo tempo, bisogna sostenerlo ma bisogna anche criticarlo, e da giorni chiede, non soltanto ha messo per primo il coprifuoco in Campania, la chiusura delle scuole al 100%, ma insiste anche per un lockdown nazionale, perché dice deve essere tutto omogeneo se vogliamo superare questa crisi. Intanto il ministro Boccia, il ministro per gli affari regionali, conferma che c'è il via libera del governo alle misure più restrittive da parte delle regioni, e in questa direzione ha deciso di andare anche la Valle d'Aosta, che fa scattare da domani sabato il coprifuoco a partire dalle 21 fino alle 5 di mattina. Del resto la Val d'Aosta è considerata in questo momento, suo malgrado, la regione più contagiata d'Italia in base ai principali parametri, che sono i decessi, i ricoveri, le terapie intensive e i contagiati. E allora ne voglio parlare con il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che saluto. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, grazie per l'invito. No, ringrazio lei per la disponibilità in un momento, insomma, così particolare per la Val d'Aosta. Lei tra l'altro trova concorde, insomma, questa decisione della regione, del presidente di regione Val d'Aosta? Mi trova concorde ed è stata concertata nel Comitato regionale per la sicurezza di questa mattina con le forze dell'ordine, con il presidente del Consorzio Permanente degli Enti Locali, il nostro ANCI per capirci regionale, e quindi è una scelta condivisa sotto tutti i punti di vista, ed è la scelta, diciamo, minima possibile per salvaguardare la salute dei nostri cittadini più possibile. Lei sindaco Nuti si è fatto l'idea del perché una regione come la Val d'Aosta, che nella prima ondata, insomma, se la passava abbastanza bene, si trovi adesso in questa situazione? Ma diciamo che è stata un'estate intensa, è stata un'estate con un afflusso turistico, diciamo, veramente sorprendente rispetto alle premesse della stagione, e questo evidentemente ha portato delle ricadute. C'è anche da dire che rispetto ai nostri indicatori l'apertura delle scuole può aver influenzato, non tanto per le procedure e le misure di sicurezza sanitarie che sono state adottate con grande rigore dai dirigenti scolastici, quanto piuttosto il prima e il dopo, le forme di aggregazione che si determinano in modo informale fuori dai contesti scolastici. Questo però è uno degli aspetti. Poi ci sono i momenti di aggregazione ludica. Comunque, diciamo, la fascia giovane deve avere piuttosto influenzato questo processo così poco virtuoso. E voi, sindaco Nuti, state cercando di sensibilizzare i giovani in particolare? Sì, è uno degli obiettivi anche di questa misura. Il coprifuoco alle porte di Halloween non è a caso, ecco, perché immaginiamo e temiamo degli assembramenti inopportuni per legittimo desiderio di festeggiare, ma anche con dei rischi evidenti anche per le persone mature, ecco, che vengono a contatto con i giovani sono anche molto più protetti, anche se non tutti, e le persone di una certa età sono più vulnerabili, come sappiamo bene. Senta, e per quanto riguarda invece il sistema sanitario territoriale, l'Istituto Superiore di Sanità ha lanciato l'allarme un po' per tante zone d'Italia, da voi com'è adesso La situazione è critica dal punto di vista della ricettività ospedaliera, diciamo straordinaria, ma non ad alta intensità assistenziale, perché il reparto di terapia intensiva è comunque ancora capiente, perché ci sono soltanto 7 pazienti su 20 posti disponibili. Voi sapete che insomma la Valle d'Aosta è piccola, c'è solo un presidio ospedaliero, però la prospettiva è quella di non riuscire a reggere un impatto maggiore, e quindi si sta cercando di individuare delle strutture idonee per accogliere, diciamo, le situazioni intermedie, cioè quelle dei positivi sintomatici ma non gravi, isolandoli dal resto del contesto, riservando la terapia intensiva da una parte e dai territori dall'altra il resto dell'utenza che in qualche modo o è positiva, asintomatica o poco sintomatica, oppure è piuttosto grave. Sindaco Nuti, le faccio sentire che cosa ha detto oggi, fra le varie cose, il presidente della regione Campania De Luca sui sindaci in generale, non riferito a lei, ma insomma, su diversi sindaci in Italia. Abbiamo assistito ad interviste mirate, ci è capitato di ascoltare sindaci che sono delle autentiche nullità, che hanno per anni abbandonato a se stesse le loro città, che non hanno alzato un dito per mettere ordine nella movida ed aiutare a contrastare la diffusione del virus, che non hanno cacciato un euro, gente che in qualunque altro paese civile del mondo sarebbe stata affidata ai servizi sociali già da anni. Cosa commenterebbe lei, Sindaco Nuti? Ma mi sembra un'affermazione da commedia dell'arte. Lo trovo da una parte simpatico perché la persona è simpatica di per sé, diciamo che è un'accusa difficile da sostenere, perché il tessuto connettivo della resistenza al Covid è stato quello dei sindaci, non è stata tanto quella delle autorità di alto livello quanto piuttosto quelle delle territorialità. Poi ci saranno naturalmente anche i casi di negligenza, come in tutte le cose del mondo e tutte le attività. Però devo dire io sono sindaco da pochi giorni, però l'ho vissuto da cittadino, ho vissuto veramente un presidio capillare e intensivo dei sindaci sui loro territori in generale. Bene, allora non mi resta che augurarle buon lavoro, buon proseguimento, sindaco Gianni Nuti. Grazie ancora. Ne abbiamo bisogno tutti quanti, già. Anche a voi buon lavoro. Grazie mille. Quindi dicevo che l'Istituto Superiore di Sanità dice che il carico non è più sostenibile per i servizi sanitari territoriali ormai in molte parti d'Italia, e sapete anche che Milano e la Lombardia sono un po' nel mirino, comunque fanno parte di queste regioni che avrebbero, di questi territori che avrebbero raggiunto lo scenario numero 4. Su questo coinvolgo Giuliano Rizzardini, che è direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. Buonasera direttore. Buonasera. Ma l'ATS, quindi l'Azienda per la Tutela della Salute di Milano, dice arriveremo a 20.000 casi questa settimana, 20.000 ulteriori contagi. È davvero così seria la situazione nel capoluogo lombardo, Rizzardini? Sicuramente i numeri ci fanno vedere che c'è un aumento esponenziale dei casi, soprattutto sulla città di Milano, l'Interland milanese e le province di Monza e Varese. Questo sono quello che ci fanno vedere i numeri, dove appunto questo indice di cui lei ha parlato, questo RT, è aumentato, per cui siamo un po' preoccupati. Insomma, quello che abbiamo visto in questi giorni, i giorni scorsi, è stato un po' l'assembramento, l'arrivo di tanti pazienti nei pronto soccorsi, per cui ha messo un po' in sofferenza il sistema della cittadino, per cui difficoltà a trovare posti letto, però piano piano ci siamo un pochino assestati, hanno aperto tutti gli ospedali milanesi di nuovi posti letto, ieri e oggi la situazione sembra un filino più tranquilla, ecco. Senta, ma a proposito delle richieste da più parti, sa che c'è un po' questa corsa contro il tempo, ma anche in ordine sparso tra regioni, comuni, il governo che chiede alle realtà territoriali di prendere delle misure più restrittive e le stesse regioni o comuni che chiedono al governo di farlo a livello nazionale. Insomma, bisogna prendere un po' coraggio per prendere appunto delle decisioni piuttosto impopolari. Lei che cosa direbbe? Si troverebbe d'accordo in base ai dati, i contagi, a quello che lei sa per sua competenza proprio diretta, professionale, chiuderebbe Milano, la Lombardia? Ma questo non è una mia competenza, ci sono tante valutazioni da fare. Sicuramente i numeri ci dicono che i contagi stanno aumentando e per diminuire i contagi bisogna trovare delle misure che impediscono alle persone di trovarsi, di trasmettere il virus. Poi, ripeto, questa è una valutazione, noi tecnici diciamo che sono questi numeri, questo indice che ormai su Milano è arrivato sopra due, quasi 2,5, che dice che ogni persona ne può infettare 2, 2,5, quindi ognuna di queste può fare la stessa cosa, per cui i numeri rischiano di aumentare, quello che vediamo appunto in maniera esponenziale. Poi ci sono delle valutazioni che sono diverse, sono valutazioni politiche, bisogna capire se alcune manovre oppure iniziative possono essere favorevoli. Sicuramente qualcosa in più bisogna fare, insomma. E qualcosa è stato fatto con queste indicazioni di PCM, però gli eventuali effetti li vediamo tra 2 settimane. Noi stiamo guardando quello che è successo nelle settimane scorse e quello ci sta dicendo che i numeri sono numeri importanti. Rizzardini, c'è un ascoltatore che sta scrivendo in questo momento che dice: girano video del Sacco di Milano, quindi dell'ospedale Sacco di Milano, con il pronto soccorso quasi vuoto. Allora, queste sono le cose che fanno un po' arrabbiare tutto il personale che sta lavorando e soffrendo in questi giorni. Lavoriamo 12-15 ore al giorno, è rimasto colpito da questo video. Questa signora si è presentata in ospedale senza chiedere niente a nessuno, è andata a vedere dei posti dove non c'erano gli ammalati presenti, però bastava portarla per mano dentro uno di qualsiasi... No, è un ascoltatore, Rizzardini, però lei lo sa che stanno girando, cioè ci manca anche che durante questa pandemia, questa crisi così forte, siamo tutti sotto pressione, voi in particolare, medici, infermieri, operatori sanitari, ne girano di video bufale per, no, anche uno su Napoli. Sì, ci sono sempre dei momenti di difficoltà. Terribili, terribili gli sciacalli. Bisogna chiamare gli sciacalli, questi qui, per cui termine giusto. Pane, vino al vino. Dovrebbero, questi due signori che sono presentati dovrebbero solo vergognarsi, e comunque se vogliono venire a vedere i nostri reparti, dove abbiamo 20 persone che sono in rianimazione, ecco, magari passare un po' di tempo lì, se si potesse per mano, forse non farebbe male a queste persone. Rizzardini, invece di postare questi video, queste idiozie, certo. Rizzardini, se lei dovesse dare un consiglio alle persone, alle istituzioni in questo momento, che cosa sentirebbe di dire? Questo è un virus che si trasmette in una maniera che noi sappiamo, che è per via aerea, per contatto, quindi l'importante è che ognuno di noi abbia la responsabilità di cercare di mantenere al massimo queste indicazioni. Se lei gira un po', io ho girato stasera per Milano un attimo, e fino alle 6 i bar c'erano soprattutto ragazzi giovani, tutti senza mascherina, a meno di un metro di distanza, poi vanno a casa, hanno i genitori, i nonni che possono ammalarsi, oppure se lei gira ancora vede che molti portano la mascherina che copre solo la bocca e non il naso, non ne usciamo più direttamente sul comodo, non usciamo più comodo, per cui non ne usciamo più in questa maniera. Queste sono le norme che ognuno di noi può rispettare, quindi il consiglio è che ognuno sia responsabile per sé e per tutti gli altri. Grazie mille professor Giuliano Rizzardini, soprattutto per il suo lavoro, grazie, buona serata. Grazie. Ci fermiamo per una breve pausa, come sempre, qui di riflessione, soprattutto di riflessione, e ci ritroviamo tra pochissimo poi con altri temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non sarete costretti a dire: io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché io ve le racconto tutte dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, quelle che sono importanti da sapere, e poi alcune di queste le approfondisco con gli ospiti. Abbiamo parlato con il sindaco di Aosta della decisione della Val d'Aosta, a sua volta, come altre regioni, di indire un coprifuoco a partire da domani, dalle 21 alle 5 in tutta la regione, non si potrà circolare in quella fascia oraria, e il sindaco d'Aosta, abbiamo parlato in particolare del capoluogo di Aosta e del fatto che comunque era concorde e che cercano appunto l'obiettivo è quello di sensibilizzare soprattutto i giovani e di far rendere più sostenibile il sistema sanitario territoriale. Tante non buone notizie, invece c'è una buona notizia per quanto riguarda l'economia italiana, e cioè che il PIL, il prodotto interno lordo, la ricchezza insomma italiana, ha avuto una crescita insperata. Ne parlo con il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Quindi si dice un rimbalzo superiore alle stime degli analisti e del governo, no? È stato. Sì, esatto. Il terzo trimestre segna, come dice l'Istat, un rotondissimo più 16% del PIL, che effettivamente è un ottimo risultato, di almeno 2 punti superiore a quello del consenso degli analisti che veniva accreditato fino a ieri. C'è un ma, però, purtroppo è già un dato vecchio, perché siamo già in un semi-lockdown, l'economia già di nuovo rischia di battere in testa, siamo al decreto dei ristori e quindi evidentemente c'è una parte del paese che non produce più e non crea più PIL, quindi evidentemente rischia di essere un fuoco fatuo, anche perché oggi poi c'è un dato che ha tirato fuori il Centro Studi Confindustria sulla produzione industriale, che si è già capito, nonostante il grande rimbalzo del terzo trimestre, tra settembre e ottobre è in rallentamento, se non in brusca frenata, vicino allo zero. Questa cosa naturalmente avrà un riflesso sul PIL del quarto trimestre, quindi come usciremo da questo 2020 maledetto alla fine con il PIL è tutto da capire. Gualtieri è stato molto ottimista, ha detto che in ogni caso la previsione che è stata messa nel NADEF non cambierà, perché appunto il surplus del terzo trimestre probabilmente riuscirà a compensare il calo del quarto. Effettivamente si è spinto molto avanti con l'ottimismo, speriamo abbia ragione. Senti, l'ottimismo della ragione, speriamo che sia quello. Sentiamo anche l'interpretazione che ha dato il governatore di Banca Italia Visco su questa crescita imprevista. Anche in Italia il ritorno alla crescita nel terzo trimestre è stato ben più marcato di quanto avevamo previsto in luglio. Abbiamo oggi i risultati di un rimbalzo molto forte del prodotto, di perlomeno 2-3 punti più alto di quanto avevamo visto allora. Vi ha contribuito il netto recupero dell'industria, dove la produzione si è riportata in agosto sui volumi precedenti l'inizio dell'epidemia. Sembra perdurare invece la debolezza nei servizi, nonostante la positiva dinamica nell'estate della spesa per le vacanze, prevalentemente di origine interna. Il rafforzamento dell'attività produttiva non sarebbe stato possibile in assenza di un orientamento fortemente espansivo delle politiche economiche. Ne è conseguito altresì un deciso miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari e creditizi. La ripresa dell'epidemia minaccia tuttavia di incidere sui risultati conseguiti. Vi è il rischio che l'aumento dei casi di contagio, anche qualora venisse contrastato con misure meno drastiche di quelle adottate in primavera, si ripercuota negativamente sulla fiducia e sulla spesa delle famiglie e delle imprese. Ha detto Visco un po' quello che ha detto Alberto Rioli, no? Uno o l'altro. Si quid mea carmina possum, come direbbe il poeta, ma insomma che l'ha detto nel linguaggio dei banchieri centrali, naturalmente, ma sì, effettivamente il senso è quello lì. Senti, adesso c'è un quarto trimestre tutto da interpretare. Alberto, invece, una notizia poi di poco fa, insomma, poco prima che iniziasse Effetto Notte, questa raggiunta intesa tra il governo e il Presidente del Consiglio Conte e i sindacati sul blocco dei licenziamenti fino a marzo, che era una richiesta che i sindacati continuavano a fare, sono detti tutti soddisfatti, CGIL, CISL, UIL. Confindustria ha detto basta, che noi dice siamo d'accordo se non ci sono costi per la cassa integrazione, per la cassa Covid. Esatto, sì, beh, questo è un accordo importante perché distende un po' gli animi tra le parti sociali che si erano un po' surriscaldati. Il sindacato ottiene il blocco dei licenziamenti fino a marzo, la Confindustria ottiene di non pagare la cassa integrazione Covid, anche perché va ricordato, perché poi spesso si dimentica, le imprese e in parte anche i lavoratori, ma in una parte molto minore, continuano a versare mensilmente sulla loro retribuzione un contributo che serve a finanziare e a pagare la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, quindi sostanzialmente il mondo dell'industria, perché è quello, se la paga la cassa integrazione. Ora il mezzo utilizzato è questo del Covid, che scarica su fiscalità generale e con un contributo però delle imprese che hanno diversi tetti, adesso non sto entrando nelle tecnicalità, viene pagata in questo modo qui ed è più celere, quindi adesso tutti utilizzano quella cassa, ma nel frattempo, in un momento in cui le imprese hanno un grande problema di liquidità, continuano in verità a finanziare l'altra cassa che non stanno usando, quindi c'è stata questa operazione di travaso di risorse che ha un po' consentito di avere un punto a favore delle imprese, quindi ha sostanzialmente riequilibrato quello che per l'impresa invece è un vulnus, cioè il blocco dei licenziamenti che ritengono antieconomico. Quindi è una buona notizia il fatto che si sia raggiunto un accordo. Infatti, grande soddisfazione soprattutto da parte dei sindacati, ma abbiamo detto che anche Confindustria insomma l'ha accolta bene. Grazie Alberto Rioli, vice editore del Sole 24 Ore, buon lavoro lì al Sole. Grazie a tu voi. Tu sei sempre al Sole, beato te. Ciao Alberto, poi sentiremo dalle previsioni dopo però, perché adesso c'è la viabilità, c'è il reportage tra poco del venerdì, noi ci risentiamo subito dopo. Intanto questo ascoltatore dice ancora con la storia dei turisti d'estate, l'incubazione dura 14 giorni, non 3 mesi, non si vuol proprio ammettere anche in Val d'Aosta che il problema sono state le scuole aperte e la relativa necessità di muoversi in tanti con gli stessi mezzi. In realtà poi si dice che il contagio non avviene a scuola, poi non credo che ci sia in Val d'Aosta in particolare una grande congestione dei trasporti, una regione un po' particolare se ce l'avete presente. Comunque abbiamo sentito il sindaco di Aosta e quelle che ritiene siano le motivazioni insomma di una situazione così particolare per la sua regione. A dopo. Euroreportage. Tribunale UE dei brevetti. Milano è favorita. Diana Marino. Arriva una soluzione in tempi rapidi, meno dei 3 anni previsti inizialmente per il cambiamento di sede del Tribunale Europeo dei Brevetti. Una soluzione di breve periodo con una provvisoria redistribuzione e spostamento di competenze da Londra alle sedi esistenti di Parigi e Monaco di Baviera. Una notizia che interessa l'Italia, ma soprattutto la città di Milano, dopo che la Farnesina ha confermato l'intenzione di presentare la candidatura del capoluogo lombardo e quanto emerso dalla riunione del comitato preparatorio del Tribunale Unificato dei Brevetti, che si è riunita giovedì 10 settembre per discutere degli effetti della Brexit e del conseguente trasferimento dell'ente comunitario. Nel corso dello stesso meeting a Bruxelles, il comitato preparatorio ha confermato la volontà degli stati partecipanti di assicurare l'entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti non appena sarà completato l'iter delle ratifiche e si spera già agli inizi del 2021. La soluzione provvisoria con la divisione delle responsabilità sulle altre due sedi servirebbe per garantire l'iter dei lavori in attesa che la accordo entra in vigore e che l'Italia possa avviare d'intesa con gli altri stati firmatari la procedura di modifica dell'accordo, appunto, per includervi in Milano quale terza sede della divisione centrale tribunale. Milano non è riuscita infatti a conquistare l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ora ci sta provando con il Tribunale Europeo dei Brevetti anche per ripartire con una delle sfide che l'aspettano dopo la frenata del Covid nella città. Dai bar alla moda, danni all'economia per 10 miliardi. Bisogna preparare bene il dossier, afferma il sindaco di Milano Beppe Sala che abbiamo incontrato all'Assemblea Generale di Assolombarda 2020. Continuano gli incontri con il governo, è chiaro che dipenderà molto anche un po' dalla capacità negoziale del governo con gli altri paesi. Da quello che capiamo l'assegnazione in realtà verrà fatta più avanti, probabilmente fra un anno, però adesso è importante essere convincenti e cominciare a tirare la rete affinché al momento giusto si sia pronti. Quindi le tempistiche sono lunghe? Sono lunghe, ma il Tribunale dei Brevetti alla fine non è neanche mai partito nella formulazione finale immaginato tempo addietro, ma se lo portassimo a casa sarebbe una cosa strepitosa, per cui io ci conto e sono contento di come la collaborazione sta funzionando. È più un lavorare dietro le quinte e nel frattempo ci sarà anche diciamo un ruolo della Germania che ha chiesto anche di essere inserita? Assolutamente sì, localmente noi dobbiamo lavorare per preparare tecnicamente bene il dossier e mentre il governo dovrà lavorare, come dice lei, dietro le quinte. Mi pare che da quello che capisco la Germania possa avere un ruolo positivo. Record su record di domande di brevetti anche l'anno scorso per l'ufficio brevetti europeo, anche se le richieste provenienti dall'Italia sono a macchia di leopardo. L'Europa, Italia compresa, si conferma come uno snodo importante per l'innovazione nel mondo, come spiega Giuliano Gregori, esaminatore specializzato nello studio dei brevetti e coautore dello studio recente sulle batterie dell'ufficio brevetti europeo. Dall'Italia la maggior parte dei brevetti arrivano naturalmente, come si può aspettare, dalla Lombardia e in seguito dalla Emilia Romagna e dal Veneto. E la Lombardia risulta essere in Europa la 12ª regione per numero di brevetti presentati all'ufficio europeo. Per quanto riguarda i settori? Per quanto riguarda l'Italia, il settore più importante è quello dei trasporti. l'ufficio europeo brevetti, la parte del leone la fa tutta la tecnologia legata ai computer, alla comunicazione digitale. Per l'Italia invece il profilo è un po' diverso, nel senso che la categoria settore tecnologico in cui arrivano la maggior parte dei brevetti italiani è quella dei trasporti. Se uno poi va a vedere nel dettaglio le prime 10 aziende che hanno presentato domani il brevetto dall'Italia, allora le prime 10 sono un po' più diversificate. Per esempio la prima, la GD di Bologna, si occupa di sigarette elettroniche, vaporizzatori, queste cose qui. Poi c'è la Pirelli, la prima azienda che si occupa di cavi, e poi c'è un'azienda farmaceutica, chiesi farmaceutici e la Saipem. Quindi è un po' più diversificato. Diciamo. C'è stato l'anno scorso, insomma in tempi di pre-Covid, c'è stato un buon numero da parte dell'Italia. L'Italia è comunque ben posizionata? Dunque, l'Italia conta per poco più del 2% delle domande di brevetto. A livello europeo è il sesto paese, dopo la Germania, la Francia, la Svizzera, Paesi Bassi e il Regno Unito. Comunque il numero di brevetti che vengono dall'Italia è in costante crescita negli ultimi 5 anni. E anche tra il 2018 e il 2019 c'è stata una crescita superiore alla crescita media in Europa. Anche la sensibilità rispetto ai brevetti europei è cresciuta, diciamo che hanno una maggiore tutela. Il brevetto europeo poi viene validato nei paesi membri della Convenzione, che sono principalmente paesi europei, compresi alcuni paesi fuori Europa, tutti i paesi membri della Convenzione. Quindi diciamo che il vantaggio del brevetto europeo è quello di poter fare con un'unica procedura, avere poi alla fine della procedura un brevetto che può essere riconosciuto in un numero piuttosto elevato di paesi europei. E non solo, c'è anche una grande importanza rispetto ai brevetti europei, proprio perché da lì si misura anche l'innovazione, la capacità di innovazione di un paese. È molto importante anche come polso della situazione economica. E inoltre anche in questo periodo di emergenza si possono monitorare queste richieste, così? Facendo uno studio, un'analisi dell'andamento delle domande di brevetti, può avere naturalmente un'indicazione oggettiva di come certe tecnologie si stanno sviluppando nei vari paesi e nel corso del tempo. E questo è sostanzialmente quello che è stato fatto per quanto riguarda lo studio dello stoccaggio dell'energia, che il brevetto europeo ha pubblicato recentemente. Negli ultimi 20 anni, quindi il periodo tra l'anno 2000 e il 2018, si è notato che mentre inizialmente la gran parte delle domande di brevetto sulle batterie era dedicato al settore dell'elettronica portatile, nel 2011 c'è stato un cambio, uno shift, e il settore automotive, quindi il trasporto, è diventato più importante e adesso è chiaramente settore in cui la maggior parte dell'innovazione nell'ambito delle batterie viene fatto. E siamo arrivati a un punto in cui però ci si aspetta, anche in base a decisioni di policy making che devono essere prese a livello europeo, ci si aspetta che anche le applicazioni stazionarie, quindi applicazioni per esempio domestiche o comunque legate al fotovoltaico e all'eolico, aumentino e diventino anche possibilmente più importanti delle applicazioni che ci sono adesso nell'ambito automotive. Cristiano Bacchini è vicepresidente del gruppo italiano di AIPI, l'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale, che ha espresso grande soddisfazione per l'ufficializzazione di una candidatura che Milano merita perché rappresenta una straordinaria realtà produttiva con centinaia di brevetti certificati. Il Tribunale Unificato dei Brevetti, noi abbiamo già una sede locale. Quella che noi in qualche modo chiediamo e per la quale abbiamo presentato la candidatura è la sezione della divisione centrale, che ha competenza sulla validità dei brevetti europei cosiddetti con effetto unitario. Perché è importante avere questa prestigiosa istituzione in ambito, come dire, nazionale, soprattutto a Milano? In primo luogo per l'indotto. Il Financial Times di qualche tempo fa che parlava di 350, mi sembra, milioni di sterline, riferito ovviamente alla sede londinese. In secondo luogo, un'istituzione di questo tipo ha una forte capacità attrattiva anche di sedi di aziende. La competenza per materia della sezione della divisione centrale è proprio quella chimico-farmaceutica. Era proprio quella dell'EMA. Tra il 40 e il 50% dei prodotti farmaceutici a livello europeo sono realizzati in ambito nazionale. C'è un tavolo tecnico presieduto dalla ex presidente della Corte d'Appello, Marina Tavassi, dove vi è anche il sindaco, il presidente della regione e vari esponenti della società civile. nonché le associazioni di imprenditori e quant'altro, sta lavorando su questo progetto e sta lavorando insieme in armonia, assieme anche alla società civile. È uno di quei bei eventi di cooperazione che fanno ben sperare in una ripresa post-Covid. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci insieme, Roberta Giordano, sempre con voi in questa parte finale di Effetto Notte. Ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 348 239 scusate 238 6666. Intanto perdo i numeri anch'io, che è il numero per i vostri WhatsApp. Dice un ascoltatore: ma una volta che ritorniamo in lockdown sarà risolutivo, e perché non c'è una banca dati unica Covid di tutta Italia? A parte che appunto abbiamo capito che il tracciamento è ormai sfuggito di mano, è fuori controllo, tanti sono i contagi continui tutti i giorni e poco il personale. Che poi sia risolutivo il lockdown lo speriamo, poi dipende da quanto dura, se ci sarà, insomma aspettiamo di vedere. Il governo ha detto che ancora vuole aspettare qualche giorno per capire se il primo DPCM avrà degli effetti concreti oppure no. E adesso sentiamo invece che tempo farà. Ma basterà una di sole, ecco che una che te me la piglio. Questa è una cosa che possiamo sapere con più facilità grazie alla grande competenza del nostro Paolo Corazzoni di Trebimeteo. Ma grazie, grazie Roberta, sempre troppo gentile, forse perché sai che sto per darti buone notizie. Eh certo, se no censuravo altrimenti. Sì. Dal punto di vista meteorologico sarà davvero un weekend tranquillo con l'alta pressione, quindi il sole bene o male protagonista in quasi tutta Italia. Ci piazziamo il quasi perché in realtà ci sono due questioni da tenere sott'occhio, che sono la nebbia che potrà tornare a formarsi in pianura padana di notte, più che altro la notte tra sabato e domenica, e quindi domenica mattina rischiamo al nord di avere una partenza un po' grigia con queste nebbie e queste foschie. Anche nell'Italia centrale, nelle valli interne, ci sarà un po' di nebbiolina, ma lì insomma in maniera un po' meno diffusa, meno insistente. E poi l'altra questione è la Liguria, solo la Liguria con un po' di nuvole durante il fine settimana, soprattutto domenica. Per il resto sole e temperature anche vicine ai 20 gradi, quindi davvero weekend piacevole tutto sommato secondo i miei canoni, ecco. Quindi torna l'estate, giusto? Non esageriamo, però guarda, ti dirò, anche settimana prossima avremo se una perturbazione a metà settimana, però non sembra particolarmente cattiva, quindi per un 7-8 giorni insomma robe particolari non dovrebbero capitare. Mi piace anche il tuo ottimismo, grazie, buona serie di ottimismi questa sera, grazie al nostro Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia, caro Paolo. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao. Adesso torno Ratta con la Folgore alle 22.